I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Nel rapporto che il Fondo Monetario Internazionale ieri ha concluso sull'Italia ci sono tanti spunti e si toccano aspetti dell'andamento della nostra economia già toccati anche da altri osservatori. Così come ci sono gli elogi alle riforme messe in cantiere dal governo Renzi, ma a questo proposito nel rapporto del Fondo Monetario è contenuto anche l'elemento più delicato. Dice infatti il Fondo Monetario: attenzione, se si vuole abbassare in modo significativo il cuneo fiscale, la differenza tra quanto costa un lavoratore e quanto effettivamente poi ha in tasca, beh allora con un debito così elevato questo potrebbe richiedere scelte politiche difficili, ossia che potrebbero riguardare anche i già alti livelli di spesa sociale e l'introduzione di una moderna tassa sugli immobili. A maggior ragione perché non si deve compromettere l'attuale sostenibilità del sistema pensionistico. Tradotto in una battuta vuol dire che se Renzi pensa alla riduzione del cuneo fiscale deve anche capire come ottenere una copertura, non escludendo una reintroduzione di una IMU appena tolta e dimenticando di minare invece la sostenibilità del nostro sistema pensionistico. Sono appunto scelte politiche e, come ricorda anche il fondo, sono difficili. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Una giornata finalmente di tregua sui mercati finanziari, con i titoli bancari, gli industriali e in generale l'intero listino che cominciano a recuperare quelle posizioni perse duramente nelle ultime settimane. In realtà, anche se è dall'inizio dell'anno che i mercati ballano, c'è grande incertezza non soltanto sulle prospettive economiche, ma soprattutto su quelle politiche. Ma ad aggravare le incertezze, come sappiamo, ci sono soprattutto i tassi a zero, oltre 3.000 miliardi di euro di bond, di BTP, di bund e così via, sono ormai a rendimenti negativi, se non a zero. E per gli investitori la caccia ai rendimenti è ormai su tutto il globo. Anche se c'è stata la ripresa, insomma, bisogna fare grande attenzione sui mercati, soprattutto per un motivo: la mancanza di guadagni e le incertezze, soprattutto sul fronte dei migranti, su Brexit, sulla Grecia e sull'Austria, stanno mandando sulla difensiva soprattutto gli investitori americani, quelli che tradizionalmente fanno un po' la storia del nostro mercato. A dircelo sono stati gli analisti di UBS, che hanno calcolato che sono ormai 15 settimane che gli investitori internazionali, soprattutto i fondi di investimento, vendono le loro quote negli exchange traded funds, ovvero i fondi scambiati in borsa che sono indicizzati ai titoli delle borse europee. Solo tra metà marzo e metà maggio i fondi hanno venduto ETF sull'azionario europeo per 22,6 miliardi di euro, una cifra non solo superiore a quella registrata durante la crisi del debito del 2011, ma soprattutto per quasi il 10% del totale degli ETF scambiati sui mercati. Anche se l'ennesima crisi del debito greco è stata appena scongiurata, insomma, la tenuta finanziaria dell'Unione è messa ancora a dura prova dalla mancanza cronica di una crescita e soprattutto di una stabilità politica messa alla prova non solo dalle elezioni, ma soprattutto da tanti rancori che affiorano dall'Europa del Nord alla Sicilia. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.